Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Oggi vi voglio raccontare una storia di scuola bellissima. È bello lui, resterete incantati, ne sono certa fra poco quando sentirete le sue parole. Il protagonista di questa storia, Guido Panseri, un professore di storia e filosofia del liceo classico Bercier di Milano, costretto ad andare in pensione da quei 61 anni compiuti, da quei 40 anni di contributi versati, da quei 35 anni passati in cattedra. Ma belli sono anche i suoi studenti, che non si rassegnano a perderlo e si sono scatenati a scuola con manifesti e magliette, per non parlare poi del putiferio scatenato su Facebook, dove Panseri viene definito eroe, genio, mito, perfino sex symbol. Insomma, Panseri, chissà che piacere tutta questa solidarietà da parte dei suoi ragazzi. Sì, sicuramente. Mi ha fatto piacere anche perché ho visto in questa reazione dei giovani una comprensione del ruolo docente, che spesso non si ritrova negli adulti. Ho visto una capacità di entrare davvero nella relazione didattica, che è accesa sempre da un affectus, come dicevano gli antichi padri, non soltanto nell'apprendimento di contenuti, ma un apprendimento che non ignora l'emozione, la passione. Ecco, tutto questo gli studenti, mi ha fatto molto piacere vedere, constatare, ecco, che condividevano questo sentire proprio del fare scuola. Perché insomma non è facile, no? Per voi insegnanti, credo, instaurare un rapporto così bello con i vostri studenti. Invece lei ci è riuscito, ma come ha fatto? Così tanti insegnanti che sono all'ascolto magari prendono anche qualche esempio, prendono nota. Insomma, come ha fatto? Come si svolgono le sue lezioni? Lì no, bisogna intanto sempre nel rispetto dei ruoli, perché non si tratta di ignorare che c'è una distinzione fra il docente e lo studente, ma bisogna appunto capire che lo studente non è un semplice recipiente. Quindi non farne degli amiconi, non fare troppo gli amiconi, perché i ruoli sono distinti. Questo esattamente, questo potrebbe anzi essere contraddittorio. E dall'altro lato capire che lo studente è un'intelligenza attenta con una straordinaria sensibilità nell'occhio, nel naso potremmo dire, nell'orecchio. La considerazione così comune e diffusa oggi dell'adolescente come ammalato, tentato inevitabilmente da forme di bullismo, significa non capire questa natura genuina da formare, con cui è certamente difficile entrare in rapporto, ma non di meno è necessario, perché se viene meno questo, se lo studente, ripeto, è pensato semplicemente come colui che deve essere plasmato, formato, costretto, misurato ora addirittura in un comportamento, quasi che comportamento venisse inteso come una delle tante materie, e in una relazione che ignora la necessità di un'educazione alla parola libera e dunque alla responsabilità, tutto questo porta la scuola a venir meno al suo compito, porta la scuola inevitabilmente alla deriva. Assolutamente sì, insomma mi piace molto, no, questa idea che lei ha dei suoi studenti, che non sono soltanto dei bulletti, dei deficienti che passano il loro tempo su internet, ma probabilmente sono i ragazzi che sono sempre stati in ogni tempo, con forme magari diverse, no? Anzi, oggi la vita dello studente è per così dire assai più complicata. Da qualche parte Aristotele diceva che gli studenti sono coloro che vivono in attesa di realizzazioni di future speranze. Oggi l'orizzonte degli studenti e dei giovani è assai più complicato, più incerto, ma proprio per questo ha bisogno di maggiore ascolto. La disciplina, già il nome stesso lo dice, la materia deve essere aperta alla discussione del nostro tempo. Ecco, poi le sue materie si prestano particolarmente, perché lei insegna storia e filosofia al liceo classico Berché, che tra l'altro è un liceo difficile, quindi insomma chissà se lei poi li mette i votacci, oppure se prescindere da questa cosa, poi me lo dirà. Insomma, come si svolgono le sue lezioni? Il lavoro del docente è inevitabilmente un lavoro a rischio da un lato, o dall'altro lato impossibile, come altre professioni, come quella dello psicanalista, anche qui ricordava Freud, o quella del sacerdote. L'esito del nostro lavoro non è immediatamente controllabile. Solo nel tempo avrai la possibilità di intendere se la traccia che è stata data durante un ciclo formativo è stata positiva o negativa. E questo carica di responsabilità la didattica. E quindi è in gioco un minimo di abilità retorica, di capacità di persuasione, ma anche di grande ascolto, perché si può anche imparare dagli studenti. Ecco, lei pone molto l'accento su questa cosa di ascoltare gli studenti, mi piace molto, ma perché di solito in realtà è l'insegnante che parla e gli studenti che sono tenuti ad ascoltare, ad apprendere. Come si svolge la sua lezione? Quando lei dice io voglio ascoltare i miei studenti, come lo fa? Quando lo fa? Ad esempio, se uno studente affronta l'etica di Kant, anche l'espressione di un suo parere esplicito, magari non canonico, ma il suo immediato sentire rispetto al dover essere, rispetto al tema della bellezza o al piacere, cioè recuperare tutta l'atmosfera che circonda la ricezione di quello che io sto dicendo o di quello che ha detto Kant. Questo porlo in movimento, farlo oggetto di trattazione, di approfondimento. Ecco perché l'atmosfera dentro cui il lavoro si svolge, che è un lavoro di ascolto, è fondamentale. Io la sto ascoltando con tanto piacere, immagino che i suoi studenti lo facciano altrettanto. Quando lei spiega saranno tutti zitti lì con le orecchie tese, perché è un piacere ascoltarla. Parlano anche, sì, sai. La scuola inevitabilmente è ricca di comportamenti, ma direi che l'importante è creare un'attenzione simbolica, ecco, impedire che questo simbolo di relazione fra di loro e con me si rompa e ognuno poi, come piccolo diavoletto, faccia ciò che più immediatamente preme, a loro preme. E ci riesce? Ci riesce sempre? Come metodo, ecco, direi che funziona. E poi a volte dipende da tante circostanze, dalla densità della giornata, da una serie di accumulazioni di impegni anche da parte degli studenti, fino a che la scuola è organizzata anche con questa successione quasi militare, ora per ora, quindi compiti dietro compiti non sempre programmati da parte della cosiddetta offerta formativa, talvolta è la stessa organizzazione scolastica che produce problemi. Specialmente quando invece ritiene di pensare di essere il luogo dove tutto si risolve. A volte la scuola può essere lei stessa una malattia, e questo siamo portati così talora a ignorarlo. Senta, ma alla fine dell'anno, o comunque alla fine del primo quadrimestre, lei sarà costretto, come tutti i suoi colleghi docenti, a mettere dei voti. Come fa a mettere dei voti a delle persone, quindi non più a degli studenti? Non deve essere facile per lei? L'importante è che quando un voto insufficiente deve essere dato, ecco, sia una ferita che lo studente capisce come rimediabile, che non sia una ferita mortale. C'è chi dà talvolta voti 2, 3, 4 e sono percepiti dallo studente come una sorta di lapide sulla sua possibilità di recupero, e questo è sicuramente negativo a mio giudizio. Senta, quali sono le sue maggiori soddisfazioni? È la capacità di espressione critica, ecco, di pensiero libero ma argomentato, che si riescono ad esprimere in rapporto alle cose che facciamo. Allora lì vedo, ecco, che quanto più, per così dire, paradossalmente si distaccano da talune mie tesi o interpretazioni, e tanto più vedo in essi questa capacità di crescita. Ecco, adolescenti, quindi, che come il germoglio, il pullus che sta nella radice stessa del discepolo, riesce per così dire a mettere le ali e a spiccare così, sempre in relazione al loro tempo, alla loro giovane età, però una significativa esperienza di vita, prima ancora diciamo che di formazione. Quanto le mancherà tutto questo? Credo che sentirò nostalgia, ma tutto sommato una nostalgia positiva di un tempo che forse non è stato del tutto vano, ma che ha contribuito a lasciare tracce in questi giovani, perché possano anche attraverso queste tracce riuscire a interpretare e a vedere cose che io non vedrò, non potrò vedere. Buona Pasqua a tutti. Se volete riascoltare questa come le altre puntate di Obbligo di Frequenza, www.radio24.it.